Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, lo sapevate che il primatista assoluto di gol con la maglia della sua nazionale è tuttora Pelé, con 77 gol in 92 partite, e che tra Brasile, Argentina, Germania, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Olanda, Italia, cioè nel calcio che conta, il primatista che ha segnato di meno in assoluto è l'italiano, cioè è Gigi Riva. Non per colpa sua, perché 35 gol in 42 partite sono tanti, è una percentuale formidabile. Non per colpa sua, anche perché Riva ha subito, come abbiamo ricordato un paio di settimane fa, in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia, dalla sua viva voce, ha dato due gambe alla patria, no? Per usare il linguaggio un po' retorico di quel giorno, nel senso che ha subito due fratture in partite di nazionale con Austria e Portogallo, quindi ne ha saltate, ha perso due anni praticamente di nazionale. Però rimane il fatto che in tutte le altre nazioni, da Gerd Müller in Germania, Battistuta in Argentina, Bobby Charlton in Inghilterra, eccetera, eccetera, e poi arriveremo al dettaglio più tardi, tutti hanno segnato più dell'attacco italiano. L'attacco italiano, che attualmente con i giocatori in attività è su misure davvero modeste. Chi ha segnato di più è Girardino, è Del Piero con 27 gol, ma in 91 partite. Girardino ne ha segnate 17 in 45, o spezzoni. Di Tari, Di Natale e De Rossi 10, De Rossi non è un cannoniere, quindi semmai questo va a suo merito. E tutto questo nasce dal fatto che, questa ricerca curata da Franco Piantanida, nasce dal fatto che David Villa, con i due gol segnati venerdì con la maglia della Spagna, è salito a quota 46 e quindi è ben oltre il primatista del calcio italiano. Ne parliamo magari più tardi, perché l'attualità più stretta è riservata a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, io credo che tra il campo della Lituania, che è un campo che definire di patate sarebbe fare un complimento a questo campo, i campi di patate sono le più serie, su cui stasera deve giocare la Spagna, tra varie turbolenze legate alla nazionale, mi sa che la tua proposta di una riforma radicale di calendari internazionali che ghettizzino, ma nel senso migliore del termine, le nazionali in un periodo fisso dell'anno e per il resto non se ne parla più, mi sa che è sempre più di attualità. Ma io lo temo nel senso che, beh, poi al di là del Marca la chiama Arenas de Kaunas, non so se giocando sul fatto che il campo di Kaunas assomiglia più a quello di un arena dove si disputa la corrida piuttosto che un campo da calcio. È onestamente imbarazzante, io credo che poi la partita verrà disputata lo stesso, la decisione di questa mattina, però c'è credo sincero imbarazzo anche da parte degli stessi lituani. Io temo che la necessità diventerà sempre più impellente di dare un confine diverso, non voglio dire di dare un recinto o un ghetto, ma insomma le nazionali sono una cosa diversa, ma per un paio di motivi che io sinceramente trovo impossibili da comprendere. Il primo ad esempio è: mi dovrebbero spiegare come non sia possibile, visto che comunque le pause della nazionale e le pause dei campionati per far giocare le nazionali sono conosciute con molti mesi d'anticipo, come sia possibile che la UEFA da un lato organizzi le qualificazioni per i campionati europei e dall'altro organizzi la Champions League e costringa i campionati a interrompersi e metta un turno importante come l'andata dei quarti di finale martedì e mercoledì della prossima settimana con la settimana prima e le partite di qualificazione agli europei. Io sinceramente la trovo una cosa che sfiora il paradosso e trovo che davvero che nemmeno Michel Platini riesca a spostare più in là una data. Poi tra l'altro la Champions League con un calendario stranissimo, perché ad esempio a volte ci sono delle interruzioni di tre settimane e invece per quanto riguarda i quarti di finale praticamente si gioca martedì e mercoledì della prossima settimana e poi di nuovo martedì e mercoledì della settimana successiva, quindi con un ingorgo di calendario che non può, soprattutto quando si tratta di partite amichevoli, delle quali penso anche non si senta la benché minima mancanza. Io onestamente trovo che questa sera trovare qualche spunto da Ucraina e Italia sarà davvero materia per veri scienziati. Ebbene, tutto questo fa sì che poi i giocatori nazionali non ci vadano, oppure ci vadano non con troppa voglia, o che comunque i club siano maldisposti nei confronti delle federazioni, che hanno invece in realtà il diritto di organizzare le loro partite come... meglio dovrebbe. Hai appena parafrasato una frase di Ferguson, che non è proprio l'ultimo, della pista: le amichevoli sono una perdita di tempo. Totale, sai che totale. Lui in genere è uno che non parla molto, no? Quel poco che ha da dire lo sintetizza. E poi parleremo magari anche del linguaggio di Capello, perché qua gli argomenti poi si concatenano, secondo quello che è apparso sul Time di stamane. Però Ferguson dice appunto, con quel suo modo estremamente sintetico e icastico, le amichevoli sono una perdita di tempo, fine. Al punto che le società, mi pare di aver letto in questi giorni, che sia per partite amichevoli ma anche per quelle ufficiali, sono sempre più restie, come è ovvio e non da oggi, a mollare i giocatori, e si è arrivati ormai alla prassi della visita fiscale, quale anche se così non si chiama ufficialmente. No, ma tra l'altro con arrivando a sfiorare il ridicolo, con visite che durano un quarto d'ora, di giocatori che arrivano, firmano due carte, vengono forse visti, ma vi assicuro che durano un quarto d'ora. Ora, la visita fiscale intanto è una cosa diversa, perché è il medico che viene a casa tua e non sei tu ad andare dal medico. Ma onestamente aver visto Pato, aver visto Boateng, aver visto altri giocatori che hanno preso l'aereo e hanno perso un giorno per andare in un posto a farsi visitare 5 minuti e poi tornare indietro, beh, insomma, io credo che la federazione brasiliana, in questo caso per quanto riguarda Pato, non aveva nessuno qui in Italia che potesse certificare l'impossibilità di Pato. Oppure dobbiamo credere che le nazionali non si fidano dei medici dei club, e alla fine bisogna pensare questo, perché se il medico del Milan testimonia e certifica che Pato non può rispondere a una convocazione, Pato non ci deve andare, punto. Non è che deve andare dal medico del Brasile, prendere l'aereo e arrivare a Londra. Per carità, non sono grandi viaggi, ma intanto sono tutti soldi buttati, e vabbè, sono perdite di tempo. E poi teniamo anche conto che poi le nazionali organizzano spesso dei voli charter per i ritorni dei loro giocatori, addirittura la notte stessa della partita. Anche queste cose hanno un peso, e in periodi di crisi, secondo me, si potrebbero anche evitare. Non c'è nessun dubbio. Matteo da Pescara scrive: ma Puskas, che ne ha segnati 84 in 83 partite, non conta. Mi scusi, ma a me Puskas non lo deve toccare nessuno, ma neanche a me, se per quello, perché il colonnello è stato uno dei più grandi di tutti i tempi. Io ho semplicemente elencato le, diciamo pure, nazionali primarie. Poi Puskas è stato l'alfiere di una grandissima Ungheria, e quindi ci sta a pieno titolo. Puskas ha segnato 84 gol in 85 partite, per la verità, a noi risulta, non in 83. Ma insomma, rimane qualcosa di stratosferico, anche se, mettendola sui record assoluti, il record è di un iraniano che si chiama Ali Daei. Ali Daei. Ho avuto il piacere di commentarlo nel 2006 ai mondiali in Germania, e ormai non si muoveva più, nel senso che era bello che cotto. Però Ali Daei è stato un grandissimo marcatore. Però questa è la dimostrazione che i gol certo, si contano, ma si dovrebbero anche un po' pesare. Si dovrebbero pesare. Lui ne ha segnati 109, che come numero e cosa, come peso magari è relativo. Intervallo, le strade. Dicevo della mirabile capacità di sintesi di Alex, Sir Alex Ferguson. Senti questa, Fabio. Ieri Capello, nella conferenza stampa di vigilia di Inghilterra Ghana, ha detto di aver di padroneggiare 100 parole in inglese, quelle che bastano, secondo lui, per comunicare con i suoi giocatori e per parlare di calcio. Allora stamane il Times, non un tabloid, il Times ha dedicato un editoriale a questo, l'ha chiamato l'immaginifico vocabolario di Capello, e ha riassunto un centinaio di parole capelliane, come fascia di capitano, telefonate, adulterio, Beckham, 45 aree di dolore, eliminazione agli ottavi, eccetera eccetera. Poi però, alla fine, dopo questa spruzzata abbondante di sarcasmo, si è chiesto: ma per la modica cifra di 6 milioni di euro l'anno, siamo sicuri che ci dobbiamo accontentare di 60.000 euro a parola, no? Visto che quello è il costo di ogni parola. Non è male, cosa dici? No, non è male. Io credo che Capello fosse un pelino nervoso dopo che ha letto le dichiarazioni di Mourinho, che in un'intervista all'Equipe aveva detto che la Football Association l'aveva contattato prima di scegliere Capello, e lui, Mourinho, avrebbe rifiutato perché non gli andava ad allenare solo una volta al mese. E insomma, credo che da un lato forse Mourinho avrebbe potuto anche risparmiarsela, e Capello certamente l'ha incassata male. Poi ieri Capello si è anche rifiutato di rispondere a, anche, secondo me in questo caso anche legittimamente, magari a domande sul derby di Milano, e questa è una cosa che dimostra sempre più che questo è un matrimonio destinato a finire il prima possibile, insomma è un matrimonio che resta in piedi solo perché è troppo difficile separarsi ed è troppo costoso separarsi per la Football Association. È evidente che Capello non sta facendo niente per risultare simpatico, cosa che peraltro non mi risulta abbia mai fatto, ed è tranquillamente nei suoi diritti non cercare di essere più simpatico di quello che in realtà non sia. Credo che questa cosa delle 100 parole in inglese sia stato un, come dire, forse non ne poteva veramente più e voleva liberarsi di delle conferenze stampa, voleva liberarsi di tutto, insomma ogni volta che Capello è in conferenza stampa credo anche che vada capito da parte nostra, perché comunque si trova di fronte delle domande, ecco, alle quali forse molti allenatori del nostro campionato non sono più abituati, e magari non era più abituato nemmeno lui. Aggiungiamoci un carico non da pochi, e cioè il fatto che comunque lui la lingua non la conosce bene. In questo ad esempio Ancelotti è andato molto meglio di lui, nel senso che l'ha imparata decisamente meglio, e quindi insomma è un matrimonio logoro, ed è un matrimonio che può stare in piedi solo finché l'Inghilterra ha speranze e ne ha naturalmente qualificazione, e poi vediamo come va gli europei, ma poi diciamo nemici come prima. C'è un'altra classifica curiosa, questa la compilata invece stamane Extra Time, cioè l'inserto internazionale di calcio internazionale della Gazzetta dello Sport, che è quella dei portieri goleador, perché domenica scorsa il portiere del San Paolo, il brasiliano Rogério Ceni, ha segnato il gol numero 100. Ora, trattandosi di un portiere, diciamo che siamo leggermente fuori norma. Questo pazzo ha segnato in carriera 55 gol su punizione, 44 gol su rigore e, per non negarsi niente, uno su azione. Dopodiché la classifica prevede, cioè contempla i 100 gol suoi, i 62 di Chilavert, paraguayano, i 41 di Higuita, che era Higuita, ma insomma gol li faceva, e anche qua, ma qui siamo tutto su un'altra valutazione, portieri goleador da noi, insomma, al massimo hanno segnato un gol, credo, nella loro carriera, e da Rampulla e Taibi, e si ricorda come un evento storico. Ma guarda, in questo io credo che non abbiamo, cioè, io non invidio nel modo più assoluto, i campionati, no, che hanno i portieri goleador. Assolutamente. Perché, no, tra l'altro va bene, le punizioni lui le tira molto bene, perché comunque ne ho viste parecchie, poi ieri ne abbiamo mandate anche in onda parecchie, sono molto ben battute. Sui calci di rigore, in realtà poi io non ricordo una situazione nella quale, non so, un calcio di punizione battuto contro la barriera ha generato poi un gol da parte degli altri. Perché secondo me bisognerebbe che succedesse una volta, così la smettono. Sì. Io non sono contrario a queste cose, però ai tempi miei i tempi miei quando giocavo a pallone io da bambino, il portiere non poteva nemmeno superare la metà campo. Io sinceramente non mi scaldo più di tanto, mi pare appartengano al folklore. Il fatto che vengano spesso da campionati sudamericani o da campionati non europei mi conferma un po' il fatto che stiamo parlando di qualcosa legato davvero più al circo che al calcio. Fabio, come ricominciano sabato i campionati? Beh, guarda, intanto vi segnalo un fantastico Villarreal-Barcellona, mi sembra la partita della settimana in Europa, ovviamente extra derby di Milano. Credo che la Serie A italiana abbia il primato in questo weekend, perché mette in scena comunque il derby di Milano, che insomma mi pare prima contro seconda, comunque mette insieme la terza all'ora di pranzo contro una squadra che lotta per la Champions come la Lazio, e chiude con Roma-Juventus, quindi diciamo che complessivamente la Serie A questa settimana, nel fine settimana, la fa da padrona. Però ci sono partite non complesse in Premier League: il Manchester United gioca contro il West Ham, l'Arsenal gioca contro il Blackburn, il Chelsea ha cominciato piano piano a recuperare e in questo momento avrebbe conquistato la Champions League, il diritto alla prossima Champions League, che comunque è un obiettivo che Ancelotti non poteva fallire. In Germania il Borussia Dortmund è atteso a una sfida non troppo difficile, ha comunque 7 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen. Diciamo che si stanno assestando i distacchi, e dobbiamo anche dire che grazie al rallentamento del Milan la Serie A è il campionato che fa registrare il minor distacco. Ovviamente prendiamo in esame soltanto Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola. Beh, però, il minor distacco tra la prima e la seconda. E quindi questa quest'anno è il campionato più interessante. Poi sì, sulla qualità ne parliamo alla fine, e già potremmo anche provare a sbilanciarci adesso, l'abbiamo già fatto, sto scherzando evidentemente, se parliamo di qualità assoluta, ma se parliamo però di emozioni e di interesse, quest'anno vince nettamente il campionato italiano. Sì, non c'è un altro campionato che abbia teoricamente quattro squadre in grado di poterlo vincere, certo, perché comunque viene conteggiata anche la possibilità dell'Udinese. Come no? Grazie Fabio. Grazie, alla prossima. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24. Allora, vi do un pochino di quei numeri perché sono molto curiosi. Allora, mettiamoci a buon diritto, a ragione l'ascoltatore pescarese, la grande Ungheria di Puskas. E allora Puskas ha segnato 84 gol in nazionale in 85 partite. Segue Pelé a 77 in 92. Gerd Müller, che è l'unico ad aver segnato più gol di quante presenze non abbia avuto. E cioè 68 gol in 62 partite. Fenomeno assoluto. Il terzo è Batistuta con 56 gol in 78, il quarto è Henry, il francese Henry, con 51 gol in 119, ce n'è dentro anche uno con la zampetta, credo di ricordare, Bobby Charlton 49 gol in 106 partite e non è male, visto che non era una punta ma giocava da centrocampista, poi da centrocampista di inserimento, Pauleta, portoghese, 47 gol in 88, David Villa, per l'appunto, che ha rinfrescato il suo score, 46 in 72, Kluivert, 40 gol in 79 partite per l'Olanda, e in Italia, ripeto, Gigi Riva, 35 gol in 42 partite, seguito dai 33 di Meazza, i 30 di Piola. Per arrivare a un giocatore in attività si arriva ai 27 di Del Piero, ma ragionevolmente, visto che Del Piero non rientra più nei progetti di Prandelli, ai 17 gol di Girardino. Se poi vogliamo parlare del primatista assoluto come percentuale di tutti i tempi, allora arriviamo a Just Fontaine, il francese straordinario cannoniere, oltre che persona strepitosa, e lo posso testimoniare per conoscenza e una lontana amicizia diretta, che segnò 30 gol in 21 partite con la nazionale, col tricolore francese, prima di rompersi una gamba a 24 anni in maniera assolutamente irrimediabile, nel senso che quell'incidente lo condannò addirittura alla zoppia, visto che si parlava oltretutto di un'altra epoca. Stasera, nell'amichevole di Kiev in Ucraina, l'uomo da seguire, insomma l'uomo più interessante che il calcio italiano metta in vetrina in questo momento, se parliamo di attaccanti, è certamente Giuseppe Rossi. Sentiamo a questo proposito un contributo di Prandelli. Su Giuseppe Rossi ho risposto che mi sembra che in questo momento abbia trovato una grandissima serenità e consapevolezza dei propri mezzi. Non chiedo sicuramente nulla di più, se non quello di giocare come sa giocare. Abbiamo provato certe situazioni, mi sembrano che siano molto interessanti. È un giocatore che riesce comunque a trovare anche la posizione giusta per far gol, e quindi lo vorrei vedere in certe zone del campo dove puoi determinare. Henry con la zampetta ha solo controllato la palla e ha fatto l'assist, poi non ha fatto lui gol, scrive Ricky da Mantova. Sì, sì, questo è vero, ha ragione. Rigamonti, mi ricordo Paolo Zuccarelli da Teramo, un ex portiere del Milan, segnò tre gol su rigore negli anni, metà degli anni 70. Alex da Udine domanda quanti gol abbia segnato Ronaldo con la maglia del Brasile. Sono 62, non pochi, in 97 partite, anche perché in quelle 97 partite ne ha giocate la metà da gordo o comunque abbondantino di peso, e alcune a fine carriera, altre in piena fase di ricostruzione da incidenti gravissimi, per esempio al tendine. Quindi anche i 62 di Ronaldo pesano tantissimo. Non è il primatista nazionale, non l'ho citato prima perché davanti a lui c'è sempre ancora Pelé. L'intervallo per i mercati. Un ascoltatore, Alfonso Di Carlo, segnala un problema di internet, cioè volevo segnalarvi che la trasmissione in streaming attualmente non funziona, peccato, potevo ascoltarvi solo così. Va bene, ovviamente funziona, la controsegnalazione mia funziona appunto da intervento possibile e possibilmente urgente. È previsto che lei parli anche della Roma oggi, domanda Lello da Vicenza, ma mica tanto, sa, perché non ci sono non ci sono novità particolari. Le ultime notizie dell'agenzia dicono che la trattativa riprende a oltranza nel pomeriggio. Il presidente di Roma 2000, che è la holding che controlla il 67% della S Roma, Attilio Zimatore, ha lasciato lo studio legale dove si sta svolgendo questa trattativa a oltranza, per l'appunto, dicendo che la trattativa non finirà presto, quindi non c'è niente di particolare oggi, ce ne occuperemo a cose fatte. Daniele Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Niente, volevo intervenire sul discorso dei calendari internazionali. Sì. Secondo me è un'idea ottima, anche perché i giocatori penso che sarebbero meno condizionati. Tipo adesso che c'è il derby di Milano e molti giocatori di Milan-Inter non giocano nelle nazionali, quindi sono partite che possono avere un valore limitato anche per gli allenatori. E secondo me, oltre a spostare le gare delle nazionali solo in un periodo dell'anno, per quanto mi riguarda ci vorrebbe una riduzione dei calendari, perché secondo me non ha senso fare 60 partite all'anno quando poi se ne giocano veramente bene 10 o 15, quando poi i giocatori non riescono a dare il massimo per tutto l'arco del campionato, della stagione. Poi ridurre il numero delle partite. E un'ultimissima cosa, secondo me, come ha fatto basket con Siena, che deve giocare lo spareggio per l'Eurolega in due settimane con i greci, hanno rinviato la partita con la seconda in classifica, l'Armani Milano. Si poteva benissimo prevedere che un periodo preciso delle coppe europee, che sono molto importanti per tutti i livelli, per tutti i soldi che poi fanno ritornare anche sì, a Terra Movimento, organizzare o predisporre uno stop del campionato o un turno dove non c'era magari la partita. Sì, che il problema, Daniele, è la rana, la rana che è troppo gonfia, no? Come sempre, e cioè tutti questi, cioè tutte queste società vogliono troppo, esigono troppo, le televisioni non ne parliamo, sicché è ovvio che la rana è troppo gonfia, e diciamo da anni che un giorno o l'altro scoppierà, poi in realtà non scoppia mai, e quindi evidentemente hanno ragione loro, hanno ragione non sulla qualità dello spettacolo che offrono o sulla credibilità, hanno ragione sulla quantità di spettacolo o presunto tale che offrono. È ovvio che da un punto di vista di società, e cioè di leghe, ma intendo non la Lega italiana, tutte le leghe europee dovrebbero seriamente prendere in considerazione l'idea di ridurre il numero delle squadre partecipanti ai campionati, quindi di tornare a 18, possibilmente addirittura a 16 per avere meno partite di campionato e per avere campionati più equilibrati e anche più credibili. Credibili dal punto di vista del valore delle squadre che vi partecipano, vale per l'Italia e vale per tutte le altre nazioni. Invece, per quanto all'aspetto del calendario internazionale, una razionalizzazione sarebbe indubbiamente quella di, io ho detto ghettizzare all'inizio, ma è ovviamente usato un verbo usato a proposito per significare in maniera ironica, perché sarebbe in realtà una valorizzazione del periodo delle nazionali e sarebbe una liberazione per i club, cioè tutto funzionerebbe meglio, perché ci sarebbe un periodo di un mese e mezzo dedicato soltanto alle esigenze della nazionale, in cui i club non avrebbero la possibilità di mettere becco, di chiedere visite fiscali e viceversa. O di fare pressioni per evitare impegni finché ce n'è. I club avrebbero i restanti, non lo so, 8-9 mesi di attività, poi si decide quanto durano i periodi di vacanza o le sospensioni di campionato per ragioni atmosferiche e climatiche, e tutto sarebbe più razionale, però evidentemente a mettersi d'accordo proprio non ce la fanno. Antonio Pisa, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie di avermi richiamato e niente, molte delle cose che volevo dire le ha dette lei, di conseguenza va bene così. Io volevo un po' polemizzare con Tavelli, che peraltro è una persona che stimo molto, nel senso che appunto io non ho sentito fin dall'inizio la trasmissione perché stavo finendo di lavorare e quindi ho sentito soltanto dal momento in cui lui diceva che appunto oggi non ci saranno molte partite interessanti, e che quindi sono queste amichevoli sono inutili sulla falsa riga di Ferguson. Mi chiedo se direbbe la stessa cosa qualora Sky potesse trasmettere anche le partite dell'Italia, no? Cioè c'è sempre un po' di discorso. Io le nazionali adesso... sono qualcosa di romantico, quel poco di romantico che ancora rimane nel calcio, per cui io sono d'accordissimo con lei. Adesso che Tavelli sia passibile di conflitto di interessi mi sembra un po' eccessivo da parte sua. Io credo che lui intendesse dire, facciamo così, lo rappresento a pieno titolo io anche per quello che riguarda Sky, pur non avendone io le credenziali. Io credo che sia un discorso serio, rimanga in linea Antonio che poi ne parliamo, credo che sia un discorso serio che riguarda la qualità di questi spettacoli e la loro credibilità. Insomma, di amichevoli ne abbiamo viste tante, non c'è bisogno di essere romantici del calcio per apprezzare o non apprezzare spettacoli che nascono dimezzati, in cui tu sai già che molti giocatori è meglio che non li utilizzi per conservare buoni rapporti con certi club, e che ad altri, in ogni caso, insomma, se proprio li utilizzi è meglio che li risparmi, che ne so, il secondo tempo piuttosto che cosa. E sai anche che l'impegno di tutti questi giocatori sarà relativo. Io sinceramente non lo so che valenza abbiano partite di questo genere. Poi un allenatore è bravissimo a ricavare risultanze, anche soltanto sensazioni, anche da partite di questo genere, però deve essere bravo davvero, deve sforzarsi, perché in realtà i presupposti non ci sono. Non insieme, però almeno lo spettacolo sarà bello, no? Nel senso che perché lo spettacolo sia bello delle nazionali occorre che abbiano giusto il tempo per giocare spesso assieme, per cui la soluzione che diceva lei della ghettizzazione tra grosse virgolette. Se lei mi consente, le volevo chiedere una cosa fuori tema velocissima a proposito del libro di Berzotti, Il romanzo del vecchio, no? Sono ancora in linea? Sì, certo Antonio. Ecco, volevo chiederle, c'è una dura polemica, c'era in quel meraviglioso libro per cui le faccio i complimenti, che come dice lei vanno divise perlomeno a metà con il protagonista, una polemica di Berzot contro Sacchi, naturalmente, mi pare, no? Nel senso che, per esempio, non mi ricordo se era lei Garanzini o Berzot a polemizzare sul fatto che alla vigilia della finale di Pasadena Sacchi facesse notare che se era la prima finale giocata senza libero, una cosa di questo genere, cioè si soffermava più su cose tattiche che non su cose emotive, no? Ecco, a me, io li stimo tutti e due, Sacchi e Berzot, voglio bene a tutti e due perché sono milanista, mio malgrado, e ritengo che insomma la polemica tra i due fosse, volevo sapere un po' da lei, perché questa polemica, solo perché Berzot era tacciato dai sacchiani di essere retro, di essere un difensivista, oppure c'era anche dell'altro, perché non mi pare ci sia da polemizzare perché uno alla vigilia della finale rivendichi tatticamente una novità che ha introdotto lui, insomma, cioè Questo è veramente un excursus, Antonio. Io non capisco come lei, con tutto rispetto e con tutta, cioè, ciascuno dei due ha la sua storia, però lei capisce che se alla vigilia di una finale mondiale si sente Sacchi, io ero presente a Pasadena e la conferenza stampa era finita, era già durata moltissimo, c'era un caldo infernale, era durata più di un'ora, Sacchi stesso era esausto, a un certo punto non ci sono più domande, lui insomma, tutti si alzano, no? Compresi loro al tavolo, e lui invece con una tigna tipica sua fa segno al microfonista, come dire, di fermarsi, di restare, e a questi inviati di tutto il mondo ovviamente dice: volevo soltanto far notare che domani per la prima volta nella storia l'Italia gioca una finale senza lo stopper e il libero. A parte il surplus di lavoro per noi italiani di spiegare al resto del mondo, ma non dico soltanto ai keniani e agli australiani, ma insomma, anche a tedeschi, inglesi e spagnoli, che cosa voleva dire Sacchi in realtà e perché, il perché di questa cosa. Il problema è che il giorno dopo l'Italia non ha passato metà campo, ha giocato senza una sola punta di ruolo e senza passare a metà campo, quindi è vero, forse, a parte il fatto che il libero è stato istituito nel dopoguerra, cioè il libero è stato inventato nel dopoguerra, quindi dato che le finali precedenti, perlomeno quelle dell'anteguerra, poi Scirea era un libero che giocava anche davanti, insomma le finali dell'anteguerra, che ci fosse il libero, cioè è una teoria sacchiana discretamente strampalata. Ma il giorno dopo questa rivendicazione, ripeto, non giocò per esempio Signori, che era sanissimo, l'Italia giocò senza punte di ruolo. Allora da lì Berzot si permise di di fare qualche riserva, no? Su questa rivendicazione storica fasulla del giorno precedente e poi sulla, sulla resa pratica, diciamo, sulla teoria prima e sulla pratica poi di quella finale di Pasadena. Tutto qua ci ha portato via 5 minuti, però visto che ci teneva e nella speranza che se parliamo di Sacchi e se parliamo di Berzot l'interesse possa essere, o perlomeno la curiosità possa essere collettiva, adesso ci facciamo quest'ultimo intervallo per sentire come va sulle strade. Ultima parte dell'appuntamento di oggi, che inizia come sempre con la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 marzo 1997. A Trieste, la nazionale di Cesare Maldini batte 3-0 la Moldavia in un incontro valido per le qualificazioni ai mondiali del 98. Le reti sono firmate da Paolo Maldini, Zola e dal debuttante Cristian Vieri, attaccante della Juventus, lanciato da Maldini che già lo aveva allenato nell'Under 21. Il gol di Vieri rimarrà scolpito nella storia azzurra per essere il numero 1000, a distanza di 87 anni, dalla prima marcatura messa a segno da Pietro Lana nella prima partita assoluta contro la Francia. Complessivamente, Vieri metterà a segno 23 reti in 49 presenze. L'ultimo gol coincide con l'ultima presenza in nazionale, di nuovo contro la Moldavia, nell'ottobre del 2005. Beh, 23 in 49 è un'altra discreta media. Mario Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti, non so se sei la fuori che sono arrivato tardi, volevo solo parlare di Balotelli per l'ennesima volta. Sì. Cioè, dispiace che un talento come Balotelli, che l'anno scorso quando entrava o segnava o faceva cambiare la partita, non sia più valido per la nazionale. Però ecco, io dico, come si fa a affidare un incendiario come Balotelli a un venditore di carburanti come Raiola? Basta, ascolto per radio, buongiorno. No, carburanti, per la verità, era un venditore di mozzarella, perché mi sembra che facesse il pizzaiolo nella sua versione originale, prima di diventare uno dei massimi responsabili e competenti del calcio mondiale. Come si fa? Si fa, se l'è scelto lui, se l'è voluto lui, e in ogni caso poi ci sono i manager, ci sono gli allenatori, ci sono i compagni di squadra, ci sono i medici societari, ci sono tante le componenti, ma quello che conta è l'individuo, e se l'individuo non sa comportarsi, c'è poco da fare intorno, insomma. Massimo da Como, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Credo che il mio intervento sia abbastanza inutile, in quanto l'avete già ricordato in trasmissione. Volevo ricordare, per quanto riguarda i portieri realizzatori, il nostro portiere Rigamonti nel Como anni 70, il Como famoso di Tardelli, Fontolan, sì. Cappellini, che aveva appunto realizzato più di 3 gol, io me li ricordo quasi tutti su rigore, ecco, scusate dell'intromissione. No, anzi, Massimo, grazie, perché sono sempre contributi interessanti, e io ripeto, quando ho defiance, e ne ho spesso di memoria, magari non nel caso di prima, su quella diatriba tra Berzot e Sacchi, ma invece se andiamo su dettaglio, su numeri, sì, Rigamonti me l'ero dimenticato Bandini, per esempio. Bandini, mi ricordo, un ascoltatore triestino, era un portiere triestino alla seconda metà degli anni 50, che batteva i rigori e li batteva vittoriosamente. Quindi c'è un casalese che mi ricorda che Garella, portiere che vinse poi il campionato col Verona e il primo col Napoli, batteva i rigori già nello Junior Casale, quindi stiamo parlando di inizio anni 80, forse fine 70. Grazie di questi contributi, invece. Adesso vorrei farvi sentire una parte abbastanza breve, direi, di un video che alcuni sampdoriani, in particolare Palombo, il capitano, che però è infortunato e sarà fuori per un po', e Poli, hanno girato un video che hanno girato per, come dire, farsi coraggio, secondo me, no? Vista la situazione veramente difficile che la Sampdoria sta attraversando in classifica. Dato che è una cosa curiosa, ne sentiamo un frammento. Il momento non è buono, abbiamo commesso sbagli, leggerezze. Penso che la squadra sia un giro di boa. Penso che sia arrivato il momento di capire che il fondo è vicino e che è meglio evitare di toccarlo. Sono molto giovane. Mi rendo certamente conto dell'opportunità che ho tra le mani e non intendo sprecarla. È vero, avevamo una grande occasione. La stagione passata abbiamo ottenuto un risultato insperato. Ora abbiamo davanti a noi un bivio. Reagire o cadere. Vincere o lasciare i nostri avversari il gusto della vittoria. Io sono il capitano di questa squadra. Voglio bene a questa maglia. Questo era di nuovo Palombo che aveva perso. È una cosa, una strategia nuova, nuova, non so quanto nuova, insomma, una strategia di comunicazione, evidentemente, una cosa che può servire a loro per i motivi, ai tifosi, per convincersi che i giocatori stanno facendo tutto il possibile. Certo, domenica la partita di Verona è molto importante per la Sampdoria, perché la serie negativa ormai è drammatica. Su Chievo-Sampdoria, tra l'altro, già girano strane voci, ma le strane voci nascono dal fatto che alcuni bookmaker hanno sospeso le puntate sul pareggio, come le avevano sospese su Padova-Atalanta della scorsa settimana. Pare che anche Brescia-Bologna sia ferma, no? Nel senso che hanno sospeso le scommesse, e staremo evidentemente a vedere, anche se vorrei ricordare per la milionesima volta che i bookmaker fanno il loro mestiere, e cioè quando vedono che ci sono dei flussi anomali di scommesse su un segno in particolare sospendono le giocate. Questo non significa che ci siano illeciti preventivi, questo significa soltanto che la logica dice che quella partita potrebbe robustamente finire in un determinato modo, e questo è il mestiere anche dei bookmaker. Da remontata del Barça fu l'inizio, no? di questi appelli video, no? a cui la Sampdoria si è ispirata. Gennaro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, no, io volevo ringraziarla perché lei ha ricordato un giocatore che credo che sia stato fortissimo, Fontaine, che credo che abbia avuto anche poca fortuna, addirittura lei ha detto che si ruppe una gamba a 24 anni. Sì. Quindi mi sembrava bene ricordare, perché per quelli che sono i miei ricordi che riguardano un po', diciamo, la gioventù e la passione del calcio di quegli anni, in effetti mi sembra che Fontaine fosse un giocatore, un centravanti alla Van Basten, potremmo dire, no? No. No, ecco, non me lo ricordo. Ecco, no. Io ricordo solamente il nome di questo giocatore e mi ricordo che era fortissimo. Ecco, questo io Justo Fontaine, come... tuttora, giusto detto Justo Fontaine, era un pied-noir, era un marocchino, insomma, naturalizzato di origine, naturalizzato francese. La Francia arrivò, non credo per scelta quanto per necessità, arrivò molto prima di noi a naturalizzare giocatori che arrivavano dalle loro ex colonie. E Fontaine fece l'exploit storico della sua carriera ai mondiali in Svezia nel 58, lui credo sia del 34, potrei sbagliare, ma insomma deve essere di quegli anni lì, 33 o 34, e fece questo exploit incredibile nel 58 ai mondiali svedesi, quando vinse il titolo di capocannoniere con 13 gol in 6 partite o in 7 partite, no, forse 7, perché fece la finale del terzo posto, comunque una media stratosferica. Nessun capocannoniere di mondiale è mai più arrivato vicino a Fontaine, che però appunto aveva questa percentuale strepitosa di 21 gol in 30 partite in nazionale francese, che dovunque abbia giocato, per esempio nei club, per esempio nel Reims, che allora era una grandissima squadra, aveva anche lì più gol che presenze, era un cannoniere straordinario. Peccato che la sua carriera sia finita troppo presto. Manuel scrive un lungo sms dicendo: ieri sono state poste le prime basi per la ricostruzione dello stadio Philadelphia, cioè la casa del grande Torino. Lei ha ricordi da condividere con noi che riguardino quello stadio? Condivide l'affetto e le speranze che i tifosi del Toro vi ripongono. Manuel, ricordi da vendere, se aprissi il libro dei ricordi del vecchio campo Philadelphia, finiremo domattina. speranze per la ricostruzione dello Stato di Filadelfia. Lei dice che ieri sono state poste le prime basi. Io, da quando l'hanno da prima ancora che lo distruggessero, credo che di prime basi ne sia state poste una trentina. Da prima che lo distruggessero, l'hanno demolito, mi pare nel 97, grosso modo, e da allora è un cumulo di macerie, per cui direi che le illusioni sono alle spalle. Fontensi era nato a Marrakesh, eccolo qua, Franco Piantanide puntuale, il 18 agosto, però il 18 agosto è lo stesso giorno, mese e anno di Rivera, il 18 agosto del 33, esattamente 10 anni prima di Gianni Rivera, segnava di più. Roberto Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo solo dire questo. Parlando del discorso della nazionale, che ovviamente sono sempre meno il tempo da poter dedicare alla nazionale, mi era venuta in macchina un'idea. Cioè, non sarebbe opportuno, ma tenuto conto che sono un problema di partite, diciamo, da svolgere, effettivamente sono troppa intensità, ci sono troppe partite sostanziali da giocare per il campionato. Non è possibile suddividere il campionato di Serie A in due gironi di 10 e 10 squadre e sviluppare un discorso delle prime due playoff scudetto, terza, quarta e quinta e sesta playoff per la Europa League, in modo tale che effettivamente si riducono comunque le giornate da fare e da poter, si può dare più spazio effettivamente al discorso e un approfondimento. Può essere un'idea, Roberto, può essere un'idea. Per il momento lei non se ne abbia male, la prego, ma al momento dobbiamo ridurre il suo intervento solo perché il tempo è scaduto. Anche questa è una soluzione, non la condivido allo 0,01%, ma anche questa potrebbe essere una soluzione. Grazie a tutti, grazie a Roberto, l'ultimo intervenuto di oggi da Salerno, a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piantanini in redazione. Buon pomeriggio.